Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nella premessa al suo libro Cristo, il vero riformatore sociale, Don Luigi Maria Verzé, fondatore dell'ospedale San Raffaele di Milano, racconta com'è nata la sua vocazione. Durante la guerra avevo visto tra le macerie di un bombardamento una donna morta, con il suo bambino ancora vivo tra le braccia. Avevo visto crollare uno ad uno tutti i ponti sull'Adige, minati dai tedeschi. Avevo visto mio fratello tornare malato da un campo di prigionia in Etiopia. Di fronte a tanto dolore, il cruccio. Come aiutare i prossimi? Come prendermi cura dei corpi sofferenti? Cominciò a radicarsi in me un amore per la medicina che, poco per volta, mi pose di fronte a un dilemma che portai ancora una volta a Don Calabria, di cui ero allora segretario particolare. Al mattino presto, poche ore prima di essere consacrato sacerdote, andai da lui e gli dissi: «Padre, sono incerto se fare il sacerdote o se imboccare la professione del medico». Restò in silenzio, in piedi, le mani giunte, congestionato per la concentrazione. Poi mi rispose: «Adesso tu ti vai a fare consacrare sacerdote. Quanto al medico, il Signore dirà». Divenni sacerdote e cominciai a lavorare con i ragazzi di strada, aspettando che il Signore dicesse. Don Calabria visse secondo carità, convinto che il mondo si potesse salvare solo tornando a Cristo e al suo Vangelo. Eppure vidi più volte in lui un genere di sofferenza terribile, che qualche volta ho sentito anch'io, una sofferenza che non auguro a nessuno. Il vuoto assoluto, sentirsi di nessuno, privi di giustificazione del sé. Nella mia vita ho sempre detto: «Signore, ti ringrazio di avermi fatto vivere, perché anche se non fossi nulla, il vivere è già un fatto. Ma se ci si comincia a chiedere perché vivere, allora si cade nel vuoto, allora il dubbio comincia a scavare e non lascia nulla di intatto. Come faccio a vincerlo? Con la preghiera, senz'altro, e con le letture, con l'esempio dei martiri e delle martiri e dei padri. La dottrina è un grande ancoraggio, ma quando il Signore vuole liberarti dal tuo sé, adopera strumenti terribili, meglio non pensarli. Come faccio a non pensarli? Mi diverto, giocando, lavorando, scrivendo. Scrivendo, soprattutto, ritrovo me stesso, le mie radici, il mio essere. Forse mi aiuta la propensione al fare, sorretta da quella focosità del carattere che subito riconobbi nel Crisostomo. Un esempio, si potrebbe pensare. Sì, ma non mi sono mai identificato con lui. Il nostro è un dialogo alla pari. Io sono io, lui è lui. La stessa cosa vale per Dio. Non è un atto di superbia. Quando parlo del Verbo incarnato, della sua identificazione nella nostra umanità e quindi dell'assunzione da parte sua del mio essere, parlo necessariamente di due cose distinte: il suo essere, il mio essere. Capita che gli innamorati si dicano, sentendolo profondamente: «Io sono te, tu sei me». Lo sentono, ma non è vero, perché io sono io e la mia individualità è unica e irripetibile per sempre. Io sono io, questa è la mia forza nell'essere. E lo dico anche nei confronti di Dio. Io non sono te, però sono simile a te, però sono in te, perché tu sei in me. Realizzo nel mio rapporto con Dio quello che sogno nel rapporto umano, che io partecipi al suo essere e che lui partecipi al mio essere. È importantissimo, ma io sono io. E come faccio a giustificare il mio io? Perché il mio io è nell'essere in lui. La mia identità deriva da una sua trasmissione di pensiero. Sono il prodotto di un pensiero divino. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Don Luigi Maria Verzé, Cristo, il vero riformatore sociale, casa editrice San Raffaele, 260 pagine, 16 euro. Letture di Radio 24. La sera del 5 gennaio a Bellano, paese affacciato sul lago di Como, c'è la festa dei Re Magi. Dal treno proveniente da Sondrio scende uno strano tipo. È chiamato il pianista per via delle mani affusolate. È venuto in città per vedere se c'è la possibilità di rubare qualcosa. L'occasione arriva quando vede, affisso su un portone, un cartello con la scritta «Pianoforte vendesi». Chiede informazioni e scopre che il calzolaio del paese ha la delega per vendere il pianoforte per conto del proprietario. Immaginando che quella casa sia vuota, una sera decide di entrarvi per vedere se c'è qualcosa da portare via. Entra, guarda in su. Due rampe di scale. È davanti alla porta. Non ci sono altri appartamenti. Nessuna luce. Ascolta. Nessun rumore. Cautela, comunque, per via dei vicini e dei dirimpettai. Trattiene il fiato. Palpeggia la porta, di legno. Ne accarezza la serratura per cercare di capirne il tipo, quale ferro gli servirà per aprirla. Ne ha di tre o quattro tipi nel giubbotto. Maniglia banale, serratura per dilettanti. Un gioco da ragazzi. Basta abbassare la maniglia e con un ferro qualunque nella toppa la porta si aprirà. Ma è già aperta. Il pianista se ne accorge quando abbassa la maniglia. La porta si apre. Guarda dentro. Buio. Sta un po' a guardare. Ascolta. Rumori. Nessuno. Come mai la porta è aperta? Gli balla nella mente. Magari il tipo, quello rubizzo, il calzolaio che aveva la delega, si è dimenticato di chiuderla, c'è passato sopra, tra un bicchiere e l'altro. O forse non è chiusa perché non vale la pena chiuderla, perché non c'è dentro niente. Niente da rubare, a parte naturalmente il pianoforte, che a nessuno verrebbe in mente di rubare, tranne che a lui, ma per scherzo. Spinge la porta. Le persiane chiuse non lasciano filtrare nemmeno un filo di luce dai lampioni della contrada. Fa un passo, due. Si chiude la porta alle spalle. Bisognerebbe essere un gatto per vedere qualcosa. Cos'è quella luce? Appare all'improvviso. Un filo di luce. Una lama di luce arancione. Filtra da sotto una porta per il resto invisibile. Il pianista trattiene il respiro. Fa due passi indietro, gli occhi fissi a quella striscia di luce. Un altro passo e crede di essere contro la porta. Allunga la mano, cerca la maniglia, poi via di corsa. Treno alle 11 e a casa. Non è la porta. È finito contro il pianoforte. Allunga la mano, trova la tastiera. Il coperchio è aperto. Non riesce a fermare quelle sue lunghe dita da pianista. Il medio cade su un tasto. Ne nasce un do, profondo, che occupa il silenzio della stanza. La porta da cui proviene il filo di luce si apre. Diventa un rettangolo arancione. In mezzo, una figura di donna. «Buonasera», dice la donna. La porta aperta offre lo spaccato di una camera da letto. «Buonasera», risponde il pianista. Sul momento non gli è venuto niente di meglio. Ha risposto tanto per dire qualcosa, vincere la sorpresa, fingere di essere lì per caso o per sbaglio. Fa anche un mezzo sorriso da persona gentile. Gli viene male. È una mezza smorfia, rapida, con la quale il labbro superiore riesce a lambire la punta del naso a becco. Deve cercare di blandire la vecchia e poi scappare. Ma la donna chiede «Siete venuto per il pianoforte?» Le sue povere dita rovinate dall'artrosi, dice, le impediscono di suonare. Non però di indicare a lui cosa fare, come muoversi sulla tastiera, per dimostrargli come sia facile suonare. Non bisognerebbe mai lasciare il coperchio alzato, dice. La polvere entra fra i tasti, si deposita sulle corde, altera il suono. Ricordatelo. Prima lezione, aggiunge sorridendo. E adesso sedetevi sullo sgabello. Il pianista guarda le sue belle lunghe dita da ladro. Le estende per bene. Chissà cosa gli toccherà fare adesso. Cominciamo con un valzerino? Chiede la vecchia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Andrea Vitali, Pianoforte vendesi, Garzanti editore, 88 pagine, 13,60 €. Nel suo libro Le opere e i giorni di Ennio Flaiano, lo storico del teatro Franco Celenza ripercorre la vita pubblica e privata del grande scrittore e giornalista di cui ricorre il centenario della nascita. Tra il 50 e il 72, in un diario parallelo edito postumo col titolo Diario degli errori, il flaiano segreto esprime in privato il suo problematico immobilistico dissenso con Roma e l'epoca in cui vive. In centinaia di frammenti che spesso hanno la sentenziosità dell'aforisma, in parallelo con la vita pubblica dello scrittore di cinema, questo diario, ricostruito e pubblicato dopo la morte di Flaiano, ci immette nella sua officina di scrittore attraverso una serie di autocomunicazioni lungo l'arco di un ventennio. Incontriamo così l'intellettuale che si esclude dal suo tempo, non condividendo nulla e sentendosi irrimediabilmente diverso, alieno e inconciliabile quanto il suo marziano. L'errore è il tema unificante di questa raccolta di aforismi. Se la vita ha un suo significato, ma non lo ha, dice Flaiano nel frammento 200, è proprio nella somma dei suoi errori spontanei e grossolani. Nell'autoanalisi del diario vengono a coincidere, rafforzandosi reciprocamente, due dati comuni sia al testo sia alla biografia dell'autore. Il suo male di vivere nel privato e la delusione storica circa la società italiana attraversata da un cambiamento epocale dovuto all'invadente sistema produzione-consumo. La tensione spirituale di Flaiano non presenta vie d'uscita, anzi culmina nel credo rovesciato di una provvidenza imprevidente. La crisi di identità è totale. Nulla ha più senso, né i viaggi con l'illusione di un altrove raggiungibile e appagante, né la scrittura, né la vita stessa. Nei frammenti proposti per la loro esemplarità in relazione a un tema specifico, un desiderio di natura e di vita si trasforma in un'ossessiva allusione al tramonto, come simbolo di morte. La divina imprevidenza, che regola tutti i nostri errori, è un mistero che la ragione non svela. Nell'atto di scrivere affiorano più risentimenti che sentimenti e la volgarità di Roma è intollerabile. La città è diventata un bivacco sulle rovine. Flaiano se ne sente estraneo e, confessando che non riuscirà mai a capirla, torna ai suoi guai privati, agli sbagli e agli esaurimenti nervosi, con uno smarrito senso della fine. Anche memorie familiari del passato vengono a tormentare la sua coscienza, come certe parole crudeli dette da giovane al padre malato che non riesce a perdonarsi. Ancora la morte è presente in un frammento folgorante. La morte procede per allusioni. La vanità che prima lo spingeva è tramontata lasciando la certezza del vuoto. Non c'è niente da raggiungere, anzi, non bisogna muoversi. Quello che era lo scopo spirituale di un viaggio nell'altrove, sempre considerato come acquisizione di conoscenza, oggi è scomparso, perché la velocità degli spostamenti lo ha annullato e gli aeroporti sostituiscono le cattedrali, come lo shopping ha sostituito la conoscenza. L'equivalenza civiltà del benessere e infelicità è messa in evidenza dal confronto tra la città celeste del mondo medioevale e la città terrena di oggi, dominata apocalitticamente dalla filosofia del successo, della felicità e del benessere. A tutto questo, Flaiano oppone la sua filosofia del rifiuto, come lo scrivano Bartleby, nel racconto omonimo di Herman Melville, che aveva come principio di vita il preferire sempre di no. La logica della produzione-consumo, fondamento di una società massificata, può condurre a trasformazioni di lungo periodo. Interessi molto forti possono modificare non soltanto il gusto, ma la biologia di un popolo. Infine, parlando di teatro, Flaiano non lo ritiene più necessario, anzi inutile, quanto scrivere poemi in ottava rima e sonetti, una forma che non ci riguarda più. La lenta sedimentazione di tanti lutti, nel privato e nella professione, ha costruito una struttura psicologica di autodifesa contro forme e contenuti di una realtà inaccettabile, che, già affrontata nel Marziano e nella Dolce Vita, verrà ancora attaccata nelle successive storie esemplari de Il gioco e il massacro e Le ombre bianche, i volumi che chiudono l'esperienza letteraria e umana di Ennio Flaiano. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Franco Celenza, Le opere e i giorni di Ennio Flaiano. Bevivino Editore, 256 pagine, 15 euro. La rivoluzione elettronica non ha solo trasformato il nostro modo di acquistare ed ascoltare la musica, ma ha anche diffuso l'idea che la capacità di produrre copie sia un diritto acquisito per tutti. Clicco, scarico, non pago. Tre semplici atti che hanno portato alla crisi, in pochi anni, un'intera industria, quella discografica, che inesorabilmente ha visto calare le vendite dei CD e crescere il numero di musica gratis attraverso la rete. Clicco, scarico e non pago. Funziona anche per il cinema, per la TV, per i giornali, per il telefono, per i videogiochi. Fino a ieri questo era illegale, era pirateria. Oggi non è più necessariamente così. I giornali online sono gratuiti, la telefonia via internet è gratuita, la web TV è gratuita, le web radio sono gratuite, stanno arrivando anche i primi film pagati interamente dalla pubblicità. C'è già, come abbiamo visto, la musica scaricata legalmente e gratuitamente. È la tecnologia digitale ad aver liberato questa possibilità. Il primo terreno dove questa rivoluzione è avvenuta è quello della musica. Una rivoluzione vera e propria, perché a differenza della vecchia pirateria fisica, quella che ancora oggi porta nelle nostre strade milioni di copie di dischi copiati illegalmente e venduti a pochi euro, ha portato in pochissimo tempo milioni di persone a collegarsi alla rete e a condividere la loro musica in un modo che prima semplicemente non era possibile, e senza pagare nulla. Che si tratti di qualcosa di illegale allo stato attuale delle cose è evidente. Copiare una canzone senza pagare i diritti d'autore significa semplicemente infrangere la legge. Ma ai frequentatori della rete il termine furto è sempre sembrato inappropriato. Innanzitutto perché nel file sharing, nello scambio dei brani online, non c'è un oggetto fisico, non c'è un disco, non c'è qualcosa che materialmente passa da una mano all'altra, da una persona all'altra. Nulla viene tolto a nessuno. Uno degli alfieri di questa rivoluzione è Janus Fries, un giovanotto di Copenaghen che a soli 31 anni si ritrova a essere miliardario e allo stesso tempo uno dei principali responsabili della rivoluzione gratuita. Fries è l'inventore di Kazaa, uno dei più fortunati software di file sharing al mondo, ed è sempre lui ad aver creato Skype, basato sempre sul peer-to-peer, ma destinato in questo caso a far telefonare gratuitamente gli utenti della rete. Online tutto diventa gratuito. Così oggi, attraverso internet, è possibile leggere gratuitamente i giornali di tutto il mondo, dal New York Times a Wall Street Journal, da Le Monde a El País, e la diffusione delle testate online cresce sempre di più. È gratis anche la televisione, quella di YouTube, con il suo gigantesco archivio di immagini di ogni epoca, e quella in diretta, offerta da siti come Cool Streaming, che attraverso il peer-to-peer consente di vedere sul computer le TV di mezzo mondo, calcio compreso. E ancora, si può telefonare gratis in tutto il pianeta con Skype, si possono vedere film corti e videoclip su siti come iFilm o film interi come su Jox. E si possono utilizzare centinaia di videogiochi, da quelli vecchi che si trovano sui siti di retro gaming a quelli recenti che sono reperibili sui principali portali internazionali. Quello del gratis è un movimento che è partito dalla rete, ma si sta allargando a dismisura. È sempre il terreno della musica quello dove si sperimentano le soluzioni più innovative, come hanno dimostrato recentemente i Radiohead e i Nine Inch Nails, distribuendo i loro nuovi album attraverso internet a offerta libera. Ma l'offerta si allarga di giorno in giorno, anche in ambiti finora non toccati da questi cambiamenti, e sono molti i gruppi di pressione che operano in questo senso, da quelli del Free Software Movement a chi lavora nel campo dei copyleft, ovvero del cambiamento delle leggi sul copyright. È il diritto d'autore, come fino ad oggi lo abbiamo inteso, ad essere messo in discussione. Nessuno vuole essere un pirata, ha sottolineato Lawrence Lessig, ordinario della facoltà di giurisprudenza di Stanford. Sono le regole che devono cambiare. Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro di Ernesto Assante, Copio dunque sono, Coniglio Editore, 144 pagine, 12 euro.